Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi, martedì, 1 marzo, benvenuti a questa ennesima trasmissione di schegge delle attualità di Radio Cerrano Web. Qui ad Atri ci troviamo sinceramente abbastanza infreddoliti, siamo sui 2 o 1 grado, ogni tanto c'è una piccola nevicata. E allora quale migliore occasione per riscaldarci un po' e parlare quindi di vino? E, oddio, la trasmissione era in programma da una settimana a questa parte, quindi insomma adesso la cosa è andata un po', come si suol dire, a fagiolo con questo freddo. Battute a parte, l'argomento di questa sera l'abbiamo chiamato i nostri vini in vetrina, perché il là ce l'ha dato questo avvenimento, questo evento che si terrà da domani fino al 7 marzo a Teramo, capitanato dal Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane, che organizza quindi The Cool on the Hills, quindi l'intelligenza, il cool sulle colline, ovvero la nostra anteprima, e cioè la seconda edizione dell'anteprima della denominazione dedicata alla stampa, quindi di settore, alla stampa nazionale e internazionale. Poi ci saranno altri avvenimenti, e quindi fra un po' noi ci collegheremo con il presidente del consorzio, Enrico Cerullirelli, mentre adesso abbiamo già in collegamento con noi un nostro amico, un amico della radio, e cioè il noto presidente dell'area marina, ex presidente dell'area marina, Torre del Cerrano, e cioè il nostro Leone Cantarini, che però stasera è nel pieno del suo ruolo, perché Leone Cantarini è un enologo. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Come sta? Come sta? Bene, bene, infreddolito, anche se sono più a sud, circa 200 chilometri a sud di Pescara, però sta lavorando, presidente. Anche qui. Sta lavorando? Sì, sono qui nella sala laboratorio degustazione, sì. Perché il presidente, io lo chiamo presidente, ormai lo chiamo presidente. Past president. Leone Cantarini è un apprezzato enologo che lavora soprattutto in Puglia, se non sbaglio, vero? Sì, non solo in Puglia, ma però, sicuramente insomma, la mia attività è quella di enologo, perché su 30, circa 37 anni di attività, solo 5 anni ho fatto il presidente dell'area marina, ma non smettendo mai. Non smettendo mai di farle enologo, quindi la diciamo prima attività io la so qual è. La prima attività è quella di marinaio, quindi di velista sicuramente. Di velista. Allora, dottor, io la chiamo dottore stasera perché sì, è pieno le sue funzioni, e perché comunque l'enologo, quando lo ha iniziato a fare lei, insomma, a studiare. Ecco, una curiosità, ma come è accaduto che ha deciso di dedicarsi al vino? Anche perché, insomma, credo che all'epoca non era una scelta tanto, tanto popolare. Ma Carlo, stasera mi stai provocando, mi farai confessare qualcosa che non ho raccontato mai a nessuno. Io ho due grandi passioni nella mia vita, come tu sai, una è la vela e l'altra è il vino, due passioni con la V. La mia famiglia non aveva niente a che fare né con il mare, con quindi la vela o tantomeno la pesca, e né con l'agricoltura e quindi con il vino. Mi sono appassionato a due cose che, ripeto, non c'entravano nulla con quello che poteva essere il mio vissuto da ragazzo e da adolescente. Ma nell'adolescenza, però, oltre ovviamente alla musica rock e agli impegni politici che comunque mi hanno sempre attratto, a un certo punto sono stato folgorato un po' dall'atmosfera che si respirava in casa quando bisognava fare il vino per casa. E quindi a casa mia si è sempre fatto, mio padre l'ha sempre fatto, e questa atmosfera, questa euforia, andare a prendere le uve che compravamo ovviamente non avendo vignette, e mi ha affascinato, mi ha attratto, tant'è che dopo gli studi all'Istituto Tecnico per Geometri di Pescara, dove avevo le idee chiarissime che non avrei mai fatto il geometra, perché mi sembrava un'attività, diciamo, che andava a scempiare il territorio, quindi già da allora ero contro l'edilizia selvaggia, e decisi di iscrivermi a Scienze Agrarie a Bologna, e poi da lì sono stato, diciamo, fortunato perché capitai in una scuola che in quegli anni era la prima in Italia, che aveva un centro di ricerche viticole ed enologiche, una cantina sperimentale, e quindi durante la vendemmia andavamo in cantina sperimentale vicino Faenza, a Tebano, e poi da lì quello che imparavo, quando poi facevamo il vino a casa, diciamo che in piccolo sperimentavo, poi mi facevo le mie bottiglie di spumante, quindi nella casa di campagna che avevamo, lì quando poi andavamo con gli amici a fare le feste era tutto un aprire di bottiglie con i tappi che saltavano in continuazione. Da lì poi è nata questa passione. Ti dirò Allora, ancora una sì, cosa, questa è dimmi. ancora un po' più seria. Quindi noi eravamo praticamente, come formazione, eravamo dei laureati in agraria con una specializzazione in viticoltura e enologia, seppur questa specializzazione non risultava, diciamo, a tutti gli effetti, ma era solo una specializzazione derivante da un piano di studi con una tesi sperimentale. In quegli anni, chi lavorava in cantina, l'enotecnico, aveva una formazione a 6 anni, quindi 6 anni di scuola superiore ed eri enotecnico e andavi a lavorare nelle cantine. Bene, siccome c'era, diciamo, inizialmente una certa ostilità ad ammettere, a far entrare a lavorare come enologo, quindi come enotecnico allora, un laureato nelle cantine. Quindi che cosa facemmo? Io e un mio carissimo amico che purtroppo ora non c'è più, che ha fatto una brillante carriera poi nell'università italiana, e andammo ad Ascoli Piceno a prendere un diploma da enotecnico, da privatisti. Quindi io l'anno che mi sono laureato, lo stesso al 14 luglio mi sono laureato, il 1º luglio sono andato a fare l'esame da privatista per prendermi il diploma da enotecnico, in modo tale che poi non potevano più sbarrarmi la strada alla voglia di andare a lavorare in una cantina. Quindi sono E stato un qui po' l'unico possiamo però. dire il fortissimamente volli, no? In Eh sì, è questo un caso. lavoro che Allora, faccio per passione, sì. naturalmente io col vino c'ho un bellissimo rapporto, ci ho avuto un bellissimo rapporto e sento anche sinceramente tutto ciò che culturalmente il nostro vino, il vino abruzzese, può trasmettere in termini anche storici, culturali. E allora io adesso darò delle informazioni, naturalmente puoi, anzi devi correggermi se sbaglio. Allora diciamo subito che noi abbiamo in Abruzzo come si chiamano? Due Doc G, DOCG. sì. Uno è il Collina Teramane. Montepulciano Teramane, l'altro sono le Terre Tollesi, giusto? Tullum, Poi sì. abbiamo una serie di DOC, quindi abbiamo Abruzzo DOC, Cerasuolo d'Abruzzo DOC, Controguerra DOC, Montepulciano d'Abruzzo DOC con sottozona Alto Tirino, sottozona Teate, sottozona Terre dei Peligni, poi abbiamo l'Ortona DOC e poi abbiamo il Trebbiano d'Abruzzo DOC. Diciamo che Abbiamo il Villa storicamente Magna Doc, abbiamo anche pure il il Villa Villa Magna Magna DOC. Doc, sì. E Diciamo che storicamente c'è un sì. iter in riconoscimento per il Doc G Terre dei Vestini. Questo ci può far piacere perché fino a qualche tempo fa l'unico DOCG abruzzese era quello delle Colline Teramane, Sì. Montepulciano Siamo, d'Abruzzo. potremmo arrivare alla terza Doc G. che è un riconoscimento importante per i nostri vini. Perché? Perché, diciamocelo chiaramente, il vino abruzzese storicamente è stato importantissimo, perché addirittura ne parlavano i romani, in diverse cronache del periodo. Poi c'è stato, anche nel periodo rinascimentale, questo discorso del Montepulciano, questo nome Montepulciano deriva proprio dalle grosse interconnessioni a livello economico che c'erano tra l'Abruzzo e Firenze. Iniziarono con le pecore, quindi con la lana, per poi allargarsi anche al vino, perché comunque i toscani in qualche modo riconoscevano una similitudine tra il loro Montepulciano e il nostro. Mentre dobbiamo dire che storicamente il Montepulciano abruzzese nasce dalle parti di Sulmona, dalle parti, diciamo, da quelle aree lì, sì. Anticamente. Sì, e quindi, Vittorito, insomma, quell'area lì, sì. Sì. E quindi, insomma, ecco, ripercorrere la storia del nostro vino, la storia dei nostri commerci, naturalmente significa ripercorrere la storia della nostra gente. Credo di non sbagliare dicendo che dagli anni 90 in poi c'è stata l'inversione di tendenza, perché fino agli anni 90 il vino abruzzese o era un vino che veniva acquistato per il taglio, se non sbaglio, oppure non era di qualità eccelsa. Per alcuni vinificatori illuminati, da quel momento in poi, dagli anni 90 in poi, credo che il trend si sia invertito, vero Presidente? Addio, Presidente, mi scappa sempre Presidente. Sì, sicuramente c'è da dire che l'Abruzzo ha la fortuna di avere un vitigno forse tra i più generosi che abbiamo in Italia. C'è un vitigno che non tradisce mai, un vitigno che ha grande struttura, grande colore, e quindi questo ha permesso al Montepulciano d'Abruzzo comunque da sempre di essere un vino ricercato. Forse, come dicevi prima tu, prima lo era più per i tagli e quindi per gli imbottigliamenti che venivano effettuati in altre aree viticole, no? Quindi era una sorta di correttore, se così si può dire. Poi ovviamente c'è stato un cambiamento, e io direi che l'anno di svolta, diciamo, della presa di coscienza è stato il 1986. Perché questa data? Perché, se voi ricordate, quello fu un anno funesto per il vino. È vero, quindi, ecco. Ricordiamo fino al metanolo. L'anno funesto in cui praticamente la sera uscivano al TG1 i necrologici delle cantine che avevano avuto il metanolo, da quel momento si prese coscienza che probabilmente il vino bisognava valorizzarlo. E sicuramente la valorizzazione doveva passare necessariamente attraverso l'imbottigliamento in una zona possibilmente anche ben definita. E questo ovviamente ha dato anche poi coraggio, dopo i primi passi, a tante aziende abruzzesi per affermarlo poi nel mondo. Allora, adesso cerchiamo di contattare Enrico Cerullirelli, che, come ho detto prima, è il presidente di questa importante organizzazione, cioè sto parlando del Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane, che da domani inizia questo, chiamiamolo workshop, o comunque questo importante momento. Momento di promozione, perché comunque i vini teramani verranno presentati a una serie di importanti stockholders, no, si chiamano adesso, cioè è purtroppo impegnato, ci riproveremo. Dicevamo, Scorrendo però alcuni studi, mi rivolgo ancora a Leone Cantarini, enologo, nostro enologo di fiducia, non tanto perché noi produciamo vino, ma perché Radio Cerrano l'ho avuto più di una volta ospite in diverse vesti. Scorrendo una serie di studi, mi sono dato una vista oggi al report vino del Spirits della SACE, che è un'area di studi di Mediobanca naturalmente, si notano una serie di, diciamo, non le voglio chiamare di anomalie, ma io penso di ritardi per quanto attiene, diciamo, il vino abruzzese. Secondo te quali sono, diciamo, questi ritardi, queste anomalie, se ci sono? Il fatto che per esempio l'Abruzzo è tra le quinte, è la quinta sesta regione che produce vino, che però come esportazione esportiamo più quantità che qualità, mentre altre regioni esportano più qualità. È il caso anche a livello internazionale della Francia rispetto all'Italia. L'Italia produce e esporta più vino, ma il fatturato, diciamo, delle aziende francesi è più alto perché i francesi esportano vino di più alta qualità. Ecco, quali sono gli ostacoli per il nostro vino, a detta tua che sei un esperto? Ma sicuramente diciamo che i problemi sono più di uno, sicuramente, perché comunque c'è stata una grossa crescita del vino abruzzese e questo non si può dimenticare. Abbiamo delle aziende che ovviamente, tanto per citare... Non ti sentiamo più. No, non mi sentite? Sì, pronto. Mi sentite? Stasera non siamo fortunati con i collegamenti. Io vi sento benissimo. Mi abbiamo senti? Problemi. Mi senti? Cerchiamo di contattarlo. Pronto? Ah, ecco, pronto. Buonasera. Già in diretta, presidente. Buonasera. Presentiamo il presidente del Consorzio di tutela Vini Colline Teramane, Cerulli Relli, che da domani fino al 7 marzo organizza questa The Cool on the Hills. Vero, presidente? Ci ragguagli un po'. Siamo emozionatissimi, è la seconda edizione di questa bella iniziativa che è unica nel suo genere in Abruzzo, perché non ci sono state finora altre occasioni come questa. L'anteprima, spieghiamolo per chi non lo sa, è una formula che si ripete in tante denominazioni d'Italia, anche molto importanti, in cui i produttori presentano alla stampa di settore, agli operatori economici, al pubblico, le annate più recenti, le annate che sono appena entrate o sono per entrare sul mercato e non sono ancora state presentate alle guide di settore, alla stampa. Cioè. Quindi è un'occasione nella quale i produttori si presentano tutti insieme, ciascuno con i propri vini, ma per presentare un territorio comune e una denominazione comune che appunto li riunisce. Quindi è per noi un'occasione veramente importantissima di conferma soprattutto del valore della nostra denominazione e della nostra capacità negli anni di lavorare insieme e di costruire un cammino comune. Allora, diamo qualche numero. Sono una trentina i giornalisti provenienti dall'Italia e dall'estero, giusto, che sono attesi a Teramo per domani e come ha detto lei, assaggeranno comunque, verranno inondati dal nostro buon vino teramano. Ricordiamo anche, io prima insieme all'enologo Leone Cantarini stiamo facendo anche un po' un excursus storico-culturale sul vino abruzzese, sul vino teramano in particolare, che è stato il primo, stavamo dicendo che il Tutela Vini Colline Teramane possiede, diciamo, il primo DOCG d'Abruzzo, e quindi è importante, diciamo, è un segmento importantissimo di questo prodotto. Dicevo, il consorzio di cui lei è presidente si occupa naturalmente non solo, anzi, di marketing, ma anche di tenere quel protocollo, quella produzione eccelsa con dei disciplinari ben precisi. Insomma, per fare un tipo di vino bisogna seguire determinate linee. Ecco, io adesso l'ho spiegato un po' da profano. Se ce lo vuole ricordare un po' che cosa fate voi nello specifico. Sì, certo. Allora, l'Abruzzo è una piccola regione, ma per la sua formazione orografica, geografica, per la sua storia politico-economica, è divisa in tanti microterritori, come tante facce di uno stesso prisma, di uno stesso diamante, diciamo. E ogni porzione di territorio ha le sue caratteristiche che derivano appunto da una storia diversa, da un territorio diverso, e tutte portano la bandiera dell'Abruzzo, ma con l'obiettivo di rappresentare la ricchezza dell'Abruzzo nella diversità. Il territorio teramano ha, come gli altri territori, una sua storia che lo distingue e che ne definisce le peculiarità. Questa storia e questo territorio, che ricordiamolo perché è molto importante per noi, si caratterizza per alcuni elementi fondamentali che sono, per esempio, la presenza del Gran Sasso vicinissima al mare Adriatico e tra loro dolci colline separate da quattro vallate per altrettanti fiumi, e si caratterizza per un territorio, per un suolo che deriva dall'antica presenza di un ghiacciaio che oggi si è ritirato nelle rocce del Gran Sasso ed è il più meridionale d'Europa. Insomma, ha delle caratteristiche peculiari che naturalmente si riflettono anche nei vini e nelle tradizioni agricole, vitivinicole della nostra provincia. Colline Teramane è quindi, diciamo, un territorio, un'area geografica, una microzona dell'Abruzzo, ma Colline Teramane è un nome che si sono inventati i viticoltori, perché forse più o meno tutti sappiamo che il Montepulciano d'Abruzzo DOC si produce in tutta la regione Abruzzo. disciplinare, sì, esatto. Autofo disciplinare, che sarebbe il decalogo del produttore, le regole che si devono seguire per produrre un vino. In questo decalogo c'è anche, è anche definita l'area di produzione, cioè lo spazio dove tu devi essere per fare quel vino. Il Montepulciano d'Abruzzo DOC si può fare in tutta la regione Abruzzo. A un certo punto i produttori teramani che producevano Montepulciano d'Abruzzo DOC hanno iniziato, si sono messi insieme, hanno detto: ma noi il vino facciamo in Montepulciano d'Abruzzo, ma ci siamo resi conto che il nostro generalmente ha delle caratteristiche particolari che lo rendono distinguibile. Allora perché non creiamo una sottozona del Montepulciano d'Abruzzo DOC, una sottozona dell'Abruzzo, un'area circoscritta dove si fa Montepulciano, ma lo chiamiamo Colline Teramane, proprio perché ha delle caratteristiche. Ed è così è nata la nostra storia di Colline Teramane, alla metà degli anni 90, quando Colline Teramane è diventato una piccola area della grande area Abruzzo per fare il Montepulciano DOC. Dopo poco meno di 10 anni, questa sottozona è stata sconfermata nelle sue peculiarità, nella sua ambizione alla qualità, ma grazie all'analisi di parametri anche oggettivi è stato ne ricordo qualcuno, ad esempio, no? Il vostro organismo quindi è deputato a garantire e migliorare la qualità del vino, di questo vino, e vi siete dotati di un rigido disciplinare che prevede rese non superiore a 90 quintali per ettaro, divieto dell'allevamento a tendone per i nuovi impianti con densità non inferiore a 3.300 ceppi per ettaro, obbligo di vinificazione e imbottigliamento all'interno della zona di produzione ed immissione sul mercato non prima di un anno per la versione normale e 3 anni per la riserva. Insomma, e questo tutto per garantire la qualità, insomma, del vino. Questi punti fondamentali del nostro disciplinare, uno di questi che lei adesso non ha letto, è l'imbottigliamento in zona di origine, ovvero che tutte le fasi di produzione avvengano nella zona di origine. Quindi Colline Teramane viene pensato, viene coltivato, cresce e si chiude tutto nel territorio di Colline Teramane. Questo è molto importante. Ma tutte queste regole che lei ha citato, che sono tra le più importanti e anche tra le più gravose in termini di impegno per il produttore, sono state volute dai produttori teramani, che hanno capito che autoimponendosi delle regole più restrittive avrebbero potuto ottenere il riconoscimento di un valore che già sapevano di avere e che in quelle regole avevano la definizione, diciamo così, oggettiva. E queste regole poi sono state presentate al Ministero, il quale dopo un lungo percorso di valutazione che non è stato per niente facile, ha riconosciuto questo valore e ha concesso la denominazione di origine controllata e garantita. All'epoca erano poco più di 70 in tutta Italia, comprese sì. le zone, quelle storiche. Quindi per l'Abruzzo è stato un grande momento di vanto e naturalmente per i produttori teramani è stato un momento di grande orgoglio, ragione di grande orgoglio. Allora, sì, prego. Sì. No, dicevo, volevo dire una cosa sola che per me è molto importante. Con Colline Teramane, lei prima diceva è stata la prima DOCG d'Abruzzo, per molto tempo è stata anche l'unica DOCG d'Abruzzo, e con Colline Teramane si è aperto un nuovo percorso per l'intero Abruzzo, perché si è cominciato quel cammino che ha portato l'Abruzzo oggi ad essere appunto articolato, declinato in tante diverse denominazioni che non fanno altro che rappresentare l'Abruzzo per quello che è, con le sue ricchezze e i suoi pregi. diviso in territori distinti ma tutti accomunati da un comune denominatore. Allora, adesso ho un paio di domande che però credo che si colleghino un po' tra di loro. Una domanda anche che ho fatto a Leone Cantarini prima e che mi è sorta facendo un'analisi anche a livello marketing oggi sulle ricerche fatte su Google, eccetera. Allora, le finalità della vostra manifestazione, del vostro evento, credo che siano quelle quindi appunto di allargare un po' il range di persone che si avvicinano al nostro vino. E poi, da operatore del settore e nonché da esperto appunto del settore, quali sono ancora i limiti di questa nostra produzione, di questo nostro prodotto, che poi peraltro è uno dei massimi prodotti di esportazione dell'intera regione Abruzzo, della filiera agroalimentare abruzzese. Ecco, quali ancora gli scogli da superare? Ma parto da quest'ultima questione. Il Colline Teramane è un vino, è un territorio che si colloca in Abruzzo, l'abbiamo detto poco fa, e quindi porta in sé il nome dell'Abruzzo e la percezione che dell'Abruzzo si ha fuori dell'Abruzzo e nel mondo. I produttori di vino sono tra i primi ambasciatori del loro territorio, questo vale per tutti i produttori del vino di tutto il mondo. E quindi, diciamo, il produttore di vino si fa portabandiera e si mette avanti per appunto presentare il proprio territorio. Il problema è che il nostro lavoro, il lavoro dei produttori di vino, è in qualche modo molto intrecciato con il lavoro che la regione, il territorio, chi amministra la regione in sé, anche nelle sue varie forme, opera, cioè il modo in cui anche questi altri soggetti contribuiscono a raccontare l'Abruzzo e a costruire la percezione che si ha dell'Abruzzo. Per noi è molto importante che l'Abruzzo venga percepito per come lo vediamo noi e come lo raccontiamo noi attraverso i vini, cioè come una terra di eccellenza, come una terra di grande interesse, di grande profondità culturale, una terra di scoperta, una terra ancora con molta autenticità da mostrare. Ecco, questo racconto noi lo possiamo fare solo in parte, c'è bisogno che questo racconto venga fatto all'unisono, diciamo così, anche da altri soggetti, soprattutto da quelli che hanno proprio il mandato per farlo. Allora sarebbe molto prezioso che ci fosse diciamo così, un organismo che comprenda tutti, ci ascolti tutti e che possa impostare un lavoro di racconto dell'Abruzzo che duri negli anni e che vada nella direzione giusta. Senza variare da un'amministrazione regionale a un'altra amministrazione regionale, c'è bisogno nella comunicazione di una grande continuità negli anni e anche di una grande dinamicità. Quindi ecco, se c'è una cosa che per noi è importante è che l'Abruzzo intero venga percepito all'altezza dei suoi vini e quindi c'è uno scambio tra chi fa il nostro lavoro e chi lavora per il territorio da altri punti di vista. In questo senso vengo alla prima questione, che è la finalità di occasioni come questa. E la finalità principale è proprio quella di raccontare il nostro territorio, le nostre tradizioni, le storie dei nostri produttori attraverso i vini nel modo giusto alle persone che si fanno amplificatori di queste storie. Quindi la prima finalità è quella di mostrare il nostro lavoro, metterci alla prova e contarci tra di noi, guardarci in faccia e dire: ci crediamo ancora? Andiamo avanti. Ci crediamo ancora? Andiamo avanti. E ogni anno fare qualcosa di più. Allora, siamo perfettamente d'accordo con quello che ci dice. Racconto una brevissima storia. Noi trasmettiamo da Atri e qualche settimana fa, anzi un paio di mesi fa, avevo avuto la fortuna di incontrare un signore americano che è uno dei massimi giornalisti americani, che conduce una trasmissione sui vini di tutto il mondo. È capitato per caso in Abruzzo, ma non in maniera fisica, ha contattato un produttore abruzzese, dopodiché è nato un'amicizia. Questo signore è venuto qui ad Atri e adesso ha preso casa ad Atri e trasmette da Atri i suoi programmi specializzati appunto sul vino. E si stava parlando proprio di questo. Lui diceva: avete dei vini splendidi, avete un modo di vivere splendido che mi ha attratto, che mi ha affascinato, sono rimasto qui, ho preso casa e la mia vita adesso credo che per i prossimi anni si svolgerà in questo ambito. Credo che appunto il racconto che si fa sia, come diceva lei, importantissimo, anche perché insomma noi abbiamo tante cose non solo da raccontare ma da mostrare. E tra questi il vino credo che sia uno degli ambasciatori principali. Allora, Presidente, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, perché sappiamo che insomma è super impegnato e agli sgoccioli dell'organizzazione. E la nostra radio, lo dico sempre, noi siamo una radio libera da tutto, ma il nostro primo obiettivo è quello appunto di dare spazio e di promuovere il nostro territorio. Qualsiasi cosa vi possa servire, noi siamo a completa disposizione vostra per aiutarvi in questo sforzo di promozione. Grazie ancora, Presidente, e buona serata, in bocca al lupo per domani. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. È stato un vero piacere fare questa chiacchierata. Ci sentiremo presto, anche noi siamo a disposizione se vogliamo andare a raccontare le storie più in profondità su questo, sì. Del territorio, dei produttori, siamo a disposizione su questo. Infatti no, volevo dire che su questo ci stiamo pensando, perché volevamo fare proprio un appuntamento fisso, e magari ci risentiremo, un appuntamento fisso sui produttori del vino e su quello che fanno e raccontano i nostri produttori, soprattutto nel Teramano. Certo, e io colgo l'occasione per invitare a nome di tutti i produttori, i nostri ascoltatori, a visitare le aziende, andare in giro, conoscere i produttori, assaggiare un vino con il produttore, andare a vedere i vigneti. Si rimane veramente sorpresi a volte dalla bellezza e dal pregio di queste esperienze. È vero, sono proprio dietro l'angolo. È vero, ha perfettamente ragione, mi associo, è un'esperienza unica, ve lo posso assicurare, è un'esperienza unica visitare un'azienda vitivinicola del nostro territorio. Grazie di nuovo, Presidente. Grazie. Salve. Grazie. Allora, è stato un corposo e bello intervento quello di Enrico Cerullirelli, presidente del consorzio Colline Teramane. Credo che sia ancora con noi il nostro enologo di fiducia. Ci sente? Sì, io vi sento. Ah, noi pure. Allora, no, io volevo, prima che tornare con Leone Cantarini, volevo dare una curiosità che ho scoperto proprio oggi pomeriggio, perché ho fatto una ricerca su Google Trends, che è un po' lo strumento attraverso il quale si può capire quali ricerche fanno i frequentatori di Google sul motore di ricerca. E ho messo negli ultimi 12 mesi Montepulciano d'Abruzzo, quante volte è stato nel 2021 è stato praticamente cercato parecchie volte, soprattutto nel marzo 2021, poi abbiamo avuto una stasi, poi giugno, poi luglio. Ma la cosa che mi ha più colpito è che la nazione che ha fatto più ricerche su Montepulciano d'Abruzzo, purtroppo, lo dico purtroppo perché in questo momento ci troviamo proprio in piena cronaca, è l'Ucraina, Poi sono stati, quindi gli ucraini sono stati quelli che hanno fatto più ricerche sul Montepulciano d'Abruzzo, poi arriva l'Italia, poi il Giappone, il Regno Unito e al quinto posto il Brasile. Insomma, questa era una piccola nota di cronaca. Allora, dottor Cantarini, il presidente un po' ha sviscerato alcune problematiche. Credo però che l'Abruzzo, insomma, parliamo più in generale, l'Italia e la Francia un po' se la battano su, per quanto riguarda le esportazioni. Noi veniamo prima credo che siamo il secondo paese esportatore, dicevo prima, il primo paese è la Francia, però come volume siamo il primo paese esportatore. Diciamo che il nostro vino nel rapporto qualità-prezzo vince, lo possiamo dire? Ma sicuramente sì, il problema è che poi loro portano a casa più valore aggiunto, questo è il, è il punto debole. Certo. Basti pensare, diciamo, al mondo delle bollicine. Esatto. Le bollicine francesi, quindi champagne e altro, fatturano circa 22-23 euro litro, quindi nel mix parlo non solo champagne, ma tutto quello che è, diciamo, bollicina, no? E quello italiano riesce a fatturare 3,70-3,60 euro. C'è chi è peggio di noi, perché la Spagna ne fattura 2,60 euro al litro. Quindi è chiaro che al di là dei volumi, no? Dove sicuramente anche sulle bollicine siamo riusciti, come volume mondiale di esportazione, siamo riusciti a batterli, ma come valore aggiunto siamo ancora molto lontani. Diciamo che questo... No, dicevo, diciamo che questo gap è anche un po' il gap che subisce l'Abruzzo nei confronti di produttori di altre regioni. Cioè noi esportiamo, sì, oppure sicuramente tanto. Sì, perché basta pensare a, diciamo, dando qualche numero, la DOC Montepulciano d'Abruzzo è il vino in cisterna, cioè il vino DOC venduto in cisterna che costa meno in tutta Italia. Cioè se io devo comprare una 300 ettolitri di vino in cisterna di un vino DOC, quindi Montepulciano d'Abruzzo o Rosso Piceno o Primitivo Salento. Oppure Primitivo di Manduria o un altro DOC che può essere di un'altra regione, in Italia quello che costa meno è il DOC Montepulciano, perché è considerato un vino della casa, un vino di servizio, un vino, diciamo, per un consumo quotidiano. Questa è una parte, un bene, perché è chiaro che ogni anno... Una parte è un bene per noi abruzzesi che andiamo... Sono 900.000 ettolitri di vino rivendicato, di cui circa oltre 600.000 vengono imbottigliati fuori regione. È chiaro che il volume è tantissimo, è una DOC, è una delle prime in Italia, però a livello di valore aggiunto paghiamo dazio. È lì che quindi bisogna... 600 ettolitri, 600.000 600.000 ettolitri vengono imbottigliati fuori dalla regione, fuori dall'Abruzzo, su circa 950.000 rivendicati ogni anno. Perché quindi conviene. La restante parte poi viene imbottigliata in Abruzzo e venduta anche, diciamo, per consumo quotidiano, anche sfuso, ma sempre in Abruzzo. Sì, questo questi è un po'... sono i numeri. Questi sono i numeri, ecco. Numero ci fa riflettere, perché voglio dire, un imbottigliamento fuori Abruzzo sicuramente intanto è un valore aggiunto che va via, se non fa arricchire di addetti, di maestranze, eccetera. Ma poi chiaramente questo fa capire che chi imbottiglia Montepulciano d'Abruzzo lo usa anche come, diciamo, riempimento di listino, nei propri listini dove vende i propri vini. Quindi lo fa come servizio, perché è un vino che dà la possibilità di essere venduto come entry level e quindi dà un servizio anche al cliente. Quindi il produttore, o diciamo meglio, l'imbottigliatore compra in Abruzzo, ma sì, poi è costretto a mettere Montepulciano d'Abruzzo sull'etichetta. Sempre, è sempre, sempre, sempre. Però sottostà agli stessi controlli dell'imbottigliatore abruzzese, uguale. Sì, ma questo diciamo... Cosa che non succede per la DOC G, attenzione, perché la DOC G deve essere imbottigliata per forza, esatto, nella zona di produzione. Quindi diciamo che la via maestra dovrebbe essere quella di aumentare la produzione di qualità. L'imbottigliamento in zona, in regione possibilmente, perché la filiera diventa più controllata, più corta, ma controllata nel senso delle politiche ovviamente commerciali, nelle politiche di marketing, di comunicazione, che certo, serve certo a creare il brand e quindi a migliorare anche la performance sui mercati, ecco. È chiaro che il successo di un vino dipende da tutta una serie di fattori, non c'è un tasto solo, perché magari sarebbe facile, tocchiamo quel tasto e voilà, è fatto. Non è così, perché è chiaro che il valore del territorio è molto legato anche all'uomo, alle persone, alla politica che viene fatta per il territorio. La Puglia aveva le stesse, diciamo, problematiche dell'Abruzzo ante metanolo, quindi fino all'86 la Puglia aveva delle problematiche sul vino ancora più devastanti rispetto all'Abruzzo. Poi c'è stata un'inversione. Qual è stato il motivo? Il motivo è che lì una serie di produttori si sono resi conto che o chiudevano o proprio cambiavano visione e hanno scelto di provare a cambiare visione. Poi lì c'è stata, in Puglia, c'è stata una grossa intuizione, che è stata quella della Film Commission, che l'allora presidente della regione Nichi Vendola decise di puntare tanto, quindi significò allora mettere tanti soldi nella Film Commission. Quindi tutta una serie di film girati in Puglia, ovviamente distribuiti in Italia e all'estero, hanno fatto sì che è esploso il turismo, e quando esplode il turismo è chiaro che si trascina dietro tutta l'enogastronomia, a partire dal vino. E quindi questo è in dubbio, sì, questo è in dubbio. Io, un caso del tutto personale, lo scorso anno, 2 anni fa, sono tornato in Puglia dopo una trentina d'anni, c'ero stato da studente a Castromarina e ho ritrovato un'altra Puglia, no, non solo Castromarina, ho ritrovato una Lecce splendida, un Salento che in pratica scoppiava di gente, e come diceva Leone Cantarini, tutto questo è anche a vantaggio dei produttori locali, perché comunque il brand del vino, penso addirittura ai Negramaro, ecco, ne dico una, un gruppo musicale che appunto prende il nome da un vino. Sì, esattamente. Quella la dice lunga, cioè un gruppo musicale che prende il nome da un vitigno. Certo, noi pure abbiamo Montepulciano e Tequila Band, però insomma, chiaramente non è la stessa cosa di Giuliano San Giorgio, insomma. È vero, perché la tequila con Montepulciano, insomma. Ecco, poi io il mio primo lavoro è stato in Puglia nel 1983, la Puglia Vinicola la conosco, diciamo, abbastanza bene. Devo dire questo, che comunque c'è un tessuto imprenditoriale agricolo molto diverso tra la Puglia e l'Abruzzo per quanto riguarda il vino. Qui il 90% della produzione abruzzese viene conferita nelle cantine sociali e trasformata dalle cantine sociali nella produzione pugliese. No, dire la produzione abruzzese. Poi alcune di queste cantine sociali imbottigliano, qualcuna è riunita in consorzio e chiaramente qualcuno poi vende sfuso, Questo però è il meccanismo del conferimento della produzione, quindi poi il vino viene venduto, il ricavo viene distribuito ai soci. In Puglia è il contrario, non più del 10% è in mano alle cantine sociali, il 90% dell'uva viene trasformata da imprenditori agricoli singoli, quindi da società di capitale, che quindi investono ogni anno per comprare l'uva, quindi per accaparrarsi l'uva, milioni e milioni di euro. È chiaro che l'imprenditoria, un imprenditore che mette sul tavolo milioni e milioni di euro, cioè la notte non dorme, perché poi deve pensare come fare a vendere, valorizzare e portare a casa i soldi, certo, per il vino che ha prodotto. E mentre dall'altra parte c'è il cosiddetto realizzo immediato. Esatto, realizzo se... e distribuisco, sì, quello che rimane, tolte le spese. Invece, sì, chiaramente, sì, l'imprenditore... E così pugliese, non si valorizza il prodotto, in effetti. L'imprenditore pugliese ha tutto l'interesse a valorizzare al massimo il prodotto, altrimenti i conti non tornano. E questo, no, ovviamente ha fatto sì che sui mercati sono stati molto molto aggressivi e lo sono ancora. Leone, dal tuo osservatorio privilegiato, vedi che un'inversione di tendenza in Abruzzo, oppure si è ancora ancorati, uso questo brutta cacofonia? Io diciamo il bicchiere lo vedo mezzo pieno per questo motivo, perché negli anni 90 in Abruzzo i venditori di vino, quindi diciamo gli export manager, si potevano contare sulle punta di una mano, sulle dita di una mano, ma di queste dita di una mano non tutti parlavano l'inglese, ok? Oggi invece è completamente l'opposto. Con l'avvento, diciamo, delle nuove generazioni, il numero di persone che vende vino, che oggi è in giro per il mondo a vendere vino abruzzese, sono moltiplicate, cioè sono decine e decine e decine. Quindi è chiaro che se prima erano 5 persone che giravano il mondo, le fiere, no, o erano al telefono per vendere vino abruzzese, adesso ne sono 50, 100, è chiaro che qualcosa deve cambiare per forza, quindi anche con capacità di relazionarsi, conoscendo le lingue, capacità di usare i social, quindi di usare tutte le tecnologie informatiche possibili, eccetera, eccetera, eccetera. Una nuova coscienza anche sullo storytelling, quindi non, sì, tanto raccontare tanto per raccontare, ma raccontare per far capire. Quindi c'è una consapevolezza diversa di ciò che il consumatore vuole, di ciò che si aspetta dal racconto. E quindi il cosiddetto turismo esperienziale, di cui abbiamo, esatto, parlato tanto, all'area marina protetta. Sì, quindi sicuramente c'è il bicchiere, lo vedo mezzo pieno, perché nelle nuove generazioni c'è quindi molta competenza e quindi meno improvvisazione. Prima è chiaro che era tutto basato sulla grande capacità di improvvisazione degli imprenditori, dei venditori del momento, degli export manager del momento, fatti in casa. Allora, noi ringraziamo il grande Leone Cantarini, che questa sera ci ha fatto capire un sacco di cose. Credo che siamo entrati un po' di più nel mondo vitivinicolo italiano, non solo abruzzese. Un po' ci ha detto ai lavori, un po' ci hai spiegato e ci hai aperto un po' gli occhi, ci hai aperto anche delle strade, e di questo ti ringraziamo tantissimo. Leone Cantarini è un nostro amico, un amico della radio, noi gli facciamo i migliori auguri per il suo lavoro e anche, insomma, lo ringraziamo ancora per aver tolto, vediamo che sta in cantina, noi lo vedete, sì, anche, sì, noi. Sì, con piacere, mi diverto, mi diverto, che stiamo lavorando a un progetto nuovo per un vitigno che qui è molto diffuso ma che non è ancora conosciutissimo all'estero, che l'uva di Troia. Abbiamo fatto delle sperimentazioni con delle, ecco, produzioni. Da qui lo storytelling, perché insomma, sì, c'è tutta una storia sulla, sull'approdo di Enea, su poi sulla Puglia, sì, cioè, insomma, Bravissimi, complimenti. Qualche sera parleremo delle anfore, del vino di Atri messo nelle anfore che i romani trasportavano con le anfore. Sì, ma noi un po' l'abbiamo fatto perché abbiamo qui un produttore locale che sta risperimentando questa cosa. Noi abbiamo assaggiato il vino, è ottimo. Sulle anfore ci sono cose importanti, perché le anfore di Atri erano veramente importantissime per il trasporto di grano e vino. Va bene, è olio, giusto. Noi ti ringraziamo ancora una volta, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, vi ricordo che siete stati qui su Radio Cerrano a ascoltare un po' storie di vini e storie anche di cultura. Questo ci ha fatto molto piacere. L'appuntamento credo che sia intanto alla prossima settimana per un'altra scheggia d'attualità. Volevo fare i complimenti questa sera al nostro direttore tecnico qui, che ha fatto un collegamento bellissimo con un nostro connazionale, con un nostro concittadino che attualmente che stava in Ucraina, che per fortuna con la squadra di basket di cui è preparatore atletico si è trasferito attualmente a Praga. Stiamo parlando di Matteo Del Principio, a cui va il nostro abbraccio, e volevo farti i complimenti, Carlo, per il bellissimo scoop. Questo per far capire che Radio Cerrano è sempre sul pezzo. Grazie e buona serata.